baci questa sera, che ho bisogno di vedere la luna piena. Vieni che la notte si avvicina, tu mio fuoco, mia stella, unica regina. Spengi la luce che il vedere è sotto le lenzuola, amore. Accendimi il tuo cuore, che ho tanto freddo in mezzo a questo sole. La radio manda musica cubana, ma io sono solo come una iena. Girano le eliche del ventilatore in questo albergo triste che profuma di candele. Rumba, rumba, rumba, apro e vedo. Rumba, rumba, rumba, passo e chiudo. Rumba, rumba, rumba, hai fatto male a cercare rose tra le mie spine. Rumba, rumba, rumba, stammi vicino. Mischia un po' le carte, che il gioco è strano. Rumba, rumba, rumba, ti regalo fiori. Non ho altro da offrirti, solo cuori. Mia vita è una triste balera, la mia clessidra è scoppiata da una vita, il mio cuore in balia di un fiume in piena, la mia nave balla sul mare di schiuma. Rumba, rumba, rumba, apro e vedo. Rumba, rumba, rumba, passo e chiudo. Rumba, rumba, rumba, hai fatto male a cercare rose tra le mie spine. Rumba, rumba, rumba, stammi vicino. Mischia un po' le carte, che il gioco è strano. Rumba, rumba, rumba, ti regalo fiori. Non ho altro da offrirti, solo cuori. Sparami di baci questa sera, che ho bisogno di vedere la luna piena. Vieni che la notte si avvicina, mio fuoco, mia stella, mia regina. Rumba, rumba, rumba, rumba, rumba. Rumba, rumba, rumba, rumba, rumba. Rumba, rumba, rumba, rumba, rumba. Rumba, rumba, rumba, rumba, rumba, oh.